Oh,

Quel luogo orrendo avea lasciato sulla

Che onore di

ansia. Chiesa. A mezzanotte. Domani. Poi vedremo allora. Addio, addio. amante. Si fanno quattro soldi, è veramente un po'. Un altro giro. Il ballo è il cognac dell'amore. Principessa, un dispaccio ufficiale vi consiglio di sospendere la festa. Un attentato.

io salgo e io uscito, il servo mi lascia un istante, io porro al piretto e trovo. E dice, ti attendo stasera alle 9. Hey! Yeah. Diretta mia Parigi. Loris, ritorno presto. Subito, arrivederci. Oh,

mia nemica al fin presto comandò di tuo fratello, Valeriano restato. La fortezza, il fossato, nella notte affogata. Mia madre, mia madre, madre mia. Morti per me. Quella donna, la madre del Castiglio che mi segue sempre ovunque, alla brema colei partia. Perché fedora da me ti scosti? Aspetta, non ancora, te prego. Perché? cuore molto ti preme. Sì. La conosci dunque? Sì. La conosci? La conosci? Ah, l'infame eri tu! Ma sono! E tu uccidesti mia madre e il fratello per vendetta del tuo Vladimiro, del crudo tuo zio. Ed ecco il tuo amore, sirena da forca, spiarmi e tradirmi. Guarda, è la morte. Sarà questa donna il vero. Sa tutto, calma! Thank you. 这里是歌舞剧场，今天我们欣赏的是意大利作曲家乔尔达诺的三部歌剧《费朵拉》，由莫纳科·费比沃、高比·卡夫契利等演唱，意大利蒙特卡罗歌剧院合唱团乐团演出。感谢您的收听，欢迎继续关注北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。 Padrini due vecchi amici. Vladimiro, Vladimiro, nel segreto nostro asilo, tanto assiduo egli si mostra che il sospetto mette in cuore. Nessuno a dare, partendo per il dolce castello materno, sopiendi lungo la promesso a mia madre. Risalgo mi slitta per atto ritorno a mezzo alla via, discesa dall'uscio del nobile amico, fratticio la quante di panda l'insepo. La monna vacilla, malletta, confessa, di manda un biglietto a reco a Vladimiro. Io salgo, e gli uscito, il servo mi lascia un istante. Io corro al diretto e trovo... Lettera infame! Che dice, ti attendo stasera alle 9. Armato. Deserta è la prima stanzetta, vi ascolto, un'onda divisa, un'onda di baci. Armati s'arma, sarà, fai quanto mi ferisce, io rispondo, ma Lucia. Thank you.